24. Sono Giovanni Minoli. Il 15 settembre torna Mix 24 con le provocazioni dei faccia a faccia. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, prenderà le decisioni giuste. Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi, molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche noi, i romani arrabbiati, sindaco, no, per questo. E hanno ragione, dovrebbero inseguire la politica con i forconi. Io da domenica blocco la città. Oh, le sfide della gente. Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati. E ancora le novità in rosa di Sara Tardelli. La libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura. I graffi di Mario Sechi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco. La storia raccontata da Marina Milone. Torino, 15 novembre 2000. Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto. E l'attualità come non l'avete mai sentita. Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking, le parole alla prova dei fatti, per il piacere di saperne di più. Intanto oggi, per la storia di Mix 24 con Marina Milone, raccontiamo il grande campione Giacinto Facchetti con un commento di Fabio Caressa, ma subito il faccia a faccia con una scienziata al Senato, Elena Cattaneo. Il faccia a faccia. Elena Cattaneo, la senatrice a vita più giovane della Repubblica, milanese, padre in Fiat, mamma ragioniere, le trasmettono il valore e la dignità del lavorare sodo. Nell'86 si laurea con lode in farmacia, giocatrice di pallavolo per 15 anni, una grande passione che deve abbandonare per le sue ricerche. Non rinuncia invece all'amore, per lei unire lavoro e famiglia si può, si sposa con Enzo, hanno due figli. Ogni mattina si sveglia pronta per una grande sfida, quella di trovare una cura per la malattia di Huntington, una malattia neurodegenerativa terribile. È professore ordinario alla Statale di Milano, direttrice del centro di ricerca sulle staminali all'Università di Milano. Un concentrato di determinazione e costanza, autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche. Oggi è uno dei massimi esperti al mondo di staminali e si è schierata duramente contro il metodo stamina di Vannoni. Senatrice Cattaneo, allora come mai lei, solo lei tra i grandi ricercatori, si è schierata subito contro il metodo stamina? No, non solo io, eravamo in tante e c'erano dei grossi motivi per schierarsi contro. Ecco, ma cosa l'ha convinta? Non c'era niente di visibile, non c'era niente di concreto, nessuna competenza, solo un grande bluff. Un grande inganno di massa, insomma. Un inganno di massa. Dovuto a cosa? Dovuto al fatto che è difficile spiegare, c'è una sofferenza, ci sono persone con malattie, bisogna star loro vicino, ma non si possono somministrare inganni. Lei ha detto stamina è il più grande deragliamento deontologico nell'ambito della medicina, nella storia della Repubblica, addirittura? Secondo me sì, non mi preoccupa il ciarlatano, i ciarlatani sono sempre esistiti, mi preoccupano le istituzioni che non riescono a tutelare i malati e rispongono a questi rischi. Ecco, lei ha parlato di intrugli somministrati per 18 mesi, sì, ma da medici consapevoli? Da medici partecipi. Colpevoli? Io penso che abbiano delle responsabilità nei rispetti anche della loro deontologia. Ne ha parlato col ministro Lorenzini? Ne abbiamo parlato diverse volte. Ha preso la strada giusta il ministro? Assolutamente sì, cercando di mettersi di mezzo quando ha potuto farlo. Senatrice Cattaneo, alcuni giovani dopo il caso Stamina le hanno scritto dicendo: cosa studio a fare se le mie competenze vengono messe sullo stesso piano di un Vannoni qualunque? Hanno torto? È verissimo, è un insulto ovviamente a tutti coloro che si impegnano a studiare biologia, medicina per essere d'aiuto agli altri. Senta, però sempre più spesso persone importanti come per esempio l'ex sindaco di New York consiglia ai giovani di lavorare invece che studiare. Senta qua. Le persone che avranno maggiori problemi sono gli studenti laureati che non sono scienziati spaziali di grande fama, al top dei loro corsi. In confronto, per uno studente medio, diventare un idraulico potrebbe essere una soluzione migliore che frequentare Harvard, perché uno studente spende in 4 anni 40-50 mila dollari in tasse senza guadagnare un soldo. Insomma, una posizione estrema. Meglio fare i cuochi oppure qualcosa d'altro piuttosto che ricercatori. Malissimo, bisogna invece studiare per poi magari andare a fare il cuoco se uno lo desidera, ma studiare è l'unico modo per crescere come individui e per non restare condizionati, per sviluppare un allenamento critico. Ecco, ma come si spiega questa costante svalutazione della necessità di studio? Perché noi abbiamo preso un esempio fra tanti. Cioè, si spiega sul fatto che non è assolutamente compreso quale sia il valore dello studio come, come crescita individuale. E anche come crescita come cittadini a livello sociale, no? Cittadini, cioè, serve comunque. Senatrice Cattaneo, dall'inizio della crisi a oggi è raddoppiato il tasso dei ragazzi, purtroppo lo sappiamo, laureati e disoccupati. La loro retribuzione reale per chi lavora negli ultimi 5 anni è diminuita del 20%. Insomma, bisogna essere monaci per scegliere la ricerca. Bisogna essere assolutamente appassionati e, insomma, stringere i denti. La cosa interessante è che ci sono tantissime persone che sono pronte a farlo, quindi i laboratori hanno ricercatori. Ecco, ma c'è un modo sicuro per far appassionare un ragazzino alla scienza? Semplicemente lasciarlo libero di studiare. È quello che usa lei, il suo modo? A 360 gradi. Ma lei che studi ha fatto? Abbiamo detto laureata in farmacia. Poi biotecnologie, poi sono stata all'estero, sono tornata. Un percorso vario. Ecco, ma senta qui invece, qual è stato il percorso molto interessante di una grande scienziata che guida il CERN, Fabiola Giannotti? Lei però è arrivata, dov'è? Venendo da studi classici, latino, greco, filosofia, eccetera. È così? Sì, sono venuta dagli studi classici che mi hanno dato una formazione molto completa. Ecco, ma che cosa le ha dato questa formazione, la formazione classica, che quella scientifica non le avrebbe dato? Beh, è stata una formazione complementare, mi ha dato l'amore per gli studi antichi, per la storia, per la letteratura, per la storia dell'arte, quindi consiglierei un percorso simile a giovani che vogliono intraprendere poi l'attività scientifica. Senatrice Cattaneo, quindi si può arrivare alla ricerca da tutte le parti. Non solo, ma la fertilizzazione tra discipline è importantissima. La scienza è tutta basata sulla storia, storia della medicina, storia della scienza. Si impara tantissimo a vedere i percorsi dei grandi scienziati, come hanno studiato, per dove sono andati, al di là del risultato specifico. Storie appassionanti. Assolutamente. Senta, senatrice Cattaneo, da ricercatrice di altissimo livello, lei guadagnava 3.300 euro al mese. In Senato 12.000, è giusto così? Quelli sono gli stipendi pubblici, 3.300 euro, ovviamente sono inadeguati rispetto a quello che, insomma, fanno i vari ricercatori. Cioè, ma io lo chiedo per sapere se secondo lei bisognerebbe ridurre lo stipendio del politico o aumentare quello del ricercatore? Beh, decisamente aumentare quello del ricercatore, poi, insomma, non sono io che in questo momento posso dire. Vabbè, no, si è fatto un'opinione. Ovviamente ridurre quello del politico. Senta, vista da vicino, adesso che è al Senato, la casta che effetto le fa? Ma io non so se esiste o no, a dire il vero, vedo persone. Vede più persone che casta. Vedo persone, non mi sembra che esista una stanza dei bottoni, mi sembra che esistano persone che, insomma, stanno facendo tante cose, a volte anche in condizioni difficili. Alcune vanno bene, alcune vanno male, serve una riforma, serve cambiare. Ma è più deluso, serve, o più sorpresa dall'impatto? Mi interessano moltissimo tante persone che ci sono lì dentro, ho trovato persone veramente interessanti. Come lo giudica Renzi? Ma è una persona che si sta cimentando in varie direzioni, forse troppe. E Napolitano? Una persona enorme. Senta, senatrice Cattaneo, scienza e politica sono due pianeti che però, lo stava dicendo anche lei, purtroppo abbastanza distanti. Per farli incontrare è il Senato delle competenze che può aiutarli? Innanzitutto bisogna partire da dove siamo oggi, e io sono d'accordo con lei, c'è diffidenza, ma è diffidenza reciproca. Eppure io credo che debba e possa nascere un'alleanza. Io penso che la scienza non possa bastare a se stessa, penso che anche la politica non possa bastare a se stessa. E il luogo? Potrebbero essere proprio, è una stanza in cui stanno insieme, no? Ma come alleati, alleati. Senta, senatrice Cattaneo, al di là degli stipendi da adeguare, che cosa deve capitare in Europa perché la spesa per la ricerca scientifica si trasformi in un vero investimento, come prevede Lisbona? La voglia di cercare le novità. la voglia di investire sul il nuovo. In Italia non c'è niente di nuovo, e invece bisogna puntare sul nuovo, rischiare, guardare oltre. Io penso che la scienza possa aiutare a fare un po' da vedetta verso il futuro, no? Cioè dovrebbe essere così. Ecco, ma per i finanziamenti bisogna puntare sull'eccellenza, un problema sempre drammatico delle democrazie. Puntare su alcuni centri di eccellenza, abbandonare il resto o distribuirle a tutti? No, sui finanziamenti si punta sulle idee. Possono arrivare dai centri di eccellenza o dai microcentri, dal singolo individuo. Devono essere le idee in competizione. E ci deve essere una capacità di selezionare. Esattamente. Ma in Catalogna, per esempio, hanno creato un'agenzia che è riuscita a far arrivare 300 ricercatori di altissimo livello, cioè idee che erano state verificate come innovative da tutto il mondo, selezionati non da docenti ma da esterni. È una strada? Ci sono strategie che si possono importare e copiare banalmente. La mia impressione è che in Italia il problema non sia solo lo scarso investimento, che significa non crederci. Sì. Ma questo è anche inaffidabile, cioè tu non puoi fare dei bandi e dopo un anno o due non sai ancora se hai vinto, se non hai vinto cosa fai delle tue persone, non è una cosa a intermittenza la ricerca. No, deve essere duratura, certo. Ecco, però, senatrice Cattaneo, lei si aspettava, parlando di ricerca, essendo lì, di essere coinvolta nel definire le linee guida della ricerca del governo? Ma io non mi vedo in questo ruolo ancora, sono lì in punta di piedi. Chiunque mi chieda posso ovviamente fornire la mia opinione, anche perché insomma ho una rete di colleghi alla quale posso attingere. Ecco, quindi io mi rendo disponibile sempre. Mix 24. Senatrice Cattaneo, parlavamo di progetti, però negli ultimi 5 anni 10 progetti di ricerca sono stati vinti da italiani a livello europeo, ma nessuno li ha investiti in Italia, sono andati tutti fuori. Quindi esportatori secchi anche di ricerche. È gravissimo ed è continuo, quindi e invece bisognerebbe risvegliare l'orgoglio di far ricerca, di farla nel proprio paese, per il proprio paese. Intanto in Italia il 40% della disoccupazione giovanile è imputabile al difficile rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Insomma, ci risiamo, studiare non serve. No, io non sono d'accordo. Credo insomma che si debba perseverare. Se al momento appunto ci sono problemi si va dall'estero, ma insomma si cresca. Ecco, io dico, quando ci sono problemi l'unico motivo, l'unica possibilità è chiedere di più a se stessi, quindi studiamo di più, cerchiamo di diventare ancora più competitivi per vincere quelle poche posizioni che sono disponibili, o andiamo all'estero per diventare ancora più agguerriti e tornare in Italia e prendere in mano i centri di ricerca. Saperi. Ecco, senatrice Cattaneo, lei dice che la legge votata in Parlamento sulla sperimentazione animale bloccherà ogni sviluppo della ricerca biomedica. Perché? Beh, ha dei limiti grossi, per esempio agli xenotrapianti, allo studio di alcuni farmaci, insomma. È una linea che restringe le linee guida europee che sono state sviluppate dopo anni di concertazione, eccetera. Insomma, sembra sempre che l'Italia sia sempre un passo indietro. Gli animalisti però dicono che la sperimentazione animale è un metodo obsoleto. Perché non è vero? A me non possono dirlo, perché io studio una malattia neurologica. Ci sono miliardi di neuroni che si parlano nel cervello, ce ne sono alcuni che non funzionano. Come fai a fare a meno della sperimentazione animale? Che tessuto usiamo? Usiamo anche cellule in vitro, usiamo anche computer per simulare cose, ma insomma la situazione più vicina al cervello umano è il tessuto animale cerebrale, quindi, complessissimo. Quindi non c'è alternativa, i metodi alternativi siamo noi che li usiamo, ma per noi non sono alternativi, sono complementari, quindi noi non possiamo assolutamente farne a meno. Ecco, gli animalisti però dicono che è pericoloso per la salute. Che non so perché, sa. Ma no. Assolutamente no. No. Allora è più pericoloso studiare su un computer e poi andare nell'uomo direttamente. Certo, gli effetti possono essere più difficili da verificare. Senatrice Cattaneo, quanto la ricerca scientifica è corrotta, diciamo, è manipolata dagli interessi delle multinazionali farmaceutiche. Ma io non ho questa visione delle multinazionali farmaceutiche, io non ho mai avuto un finanziamento dalle multinazionali farmaceutiche, giusto per chiarire. Non ho questa visione, credo che siano ovviamente organizzazioni che mirano anche a un profitto, come qualsiasi organizzazione commerciale. Sono anche gli enti che ci permettono oggi a me e a lei di essere qui, perché ci hanno protetto con i vari farmaci che hanno sviluppato. Ovviamente il ricavato deve essere un giusto ricavo, no, per loro. Ma la ricerca oramai praticamente nelle loro mani, quella pubblica poco. Ma assolutamente no, cioè, sarà che nel mio campo io insomma faccio ricerca di base, studio malattie, cerchiamo di sviluppare strategie cliniche. La ricerca per quello che io ho sempre vissuto è in mano a me, agli sperimentatori. Quindi siamo noi che decidiamo. Esatto. Senta, senatrice Cattaneo, i farmaci consumati, però vorrei restare un momento su questo tema, sono sperimentati nella maggior parte dei casi, al massimo sul sessantennio poco oltre, con la vita che si allunga così tanto, alla fine non serve un effetto placebo. Ma non lo so, cioè, insomma, bisogna vedere che farmaci, adesso non generalizziamo. Questo che lei sta dicendo significa che bisogna sperimentare ancora di più, e per sperimentare, ovviamente, fare sperimentazione clinica ad alto livello su grossi numeri di pazienti, per forza devi coinvolgere le multinazionali, perché nessun laboratorio potrà mai fare niente di investire simile così, quindi tanto. È un'alleanza anche in quel senso. Senatrice Cattaneo, ma entrare in Parlamento per lei ha significato rinunciare alla ricerca? Ma nel modo assolutamente no, non potrei mai. Beh, insomma, ci si organizza sempre di più e sempre al meglio. Io sono tutte le settimane in Senato almeno un giorno, ho creato un gruppo di persone reclutato da me, è il mio laboratorio in Senato, uno storico della medicina e un costituzionalista, due giovani, e loro insieme a me fanno da raccordo col mondo esterno, con i colleghi e con l'istituzione. E poi, insomma, il mio laboratorio è fatto da 20 persone, ci sono 20 stipendi tutti i mesi da trovare, quindi lavoro gratuitamente ovviamente per l'Università di Milano. Quindi. E quindi prova a testimoniare con questo gruppo anche in Parlamento quanto è bella la scienza. Insomma. E quanto importante è il lavoro di squadra, ecco, io credo veramente al lavoro di squadra. Senatrice Cattaneo, ma lei si è fatta un'idea del perché il Paese non ama e non conosce la ricerca? Io credo che sia solo un problema di comunicazione. Ogni volta che mi è capitato di parlare, ma anche di temi complessi che possono anche creare dei conflitti, perché ogni volta invece raggiungi le persone, perché le persone sono in grado assolutamente di capire. C'è la domanda ma non c'è l'offerta. Va aumentata l'offerta e speriamo ci siano altre occasioni. Ecco, ma per esempio la televisione, che è il mezzo più potente che abbiamo, che cosa dovrebbe fare di più e di diverso? Fare innamorare ai percorsi della scienza, fare innamorare sulle avventure della scienza più che sui risultati, no? Di queste persone che sfidano l'ignoto, dove non c'è nessuno, che conquistano la Luna senza nemmeno sapere dove sia, no? Quando partono, queste cose enormi. No? Di questo dovrebbe fare la televisione, una televisione di servizio pubblico dovrebbe farlo più delle altre. Credo proprio di sì, e poi è straordinario da raccontare, perché ti dà proprio l'impressione, insomma, di quanto coraggio l'uomo, e ti dà anche l'idea della fiducia, ti dà un senso di fiducia, certo, nell'uomo che esplora. No? Senta, ma siamo tutti uguali, che è un po' alla base dei finanziamenti a pioggia, il male dell'Italia? Non siamo tutti uguali. Io credo che siano uguali e importanti tutti i lavori onesti. Però insomma ciascuno ha capacità, intenzioni e volontà diverse, quindi... Ma per fare ripartire la scienza ci vogliono più soldi prima di tutto, o no? Ci vogliono più soldi e regole per distribuirli. Appunto, per questo dicevo, la distribuzione a pioggia non garantisce niente. Ecco, agenzie indipendenti garanti dei centri statali di ricerca sarebbe meglio. Ma guardi che paradossalmente gli scienziati italiani sono continuamente reclutati dalle agenzie straniere per valutare i loro progetti. Quindi noi facciamo un servizio ovviamente gratuito, continuo per gli altri. Facciamo migliorare gli altri, chiamiamo gli altri a gestire il finanziamento pubblico italiano. Senatrice Cattaneo, ma perché le grandi aziende che fanno ricerca sono quasi tutte andate via dall'Italia? ma da quello che mi sembra di capire ci sono problemi burocratici, insomma, di leggi, di difficoltà, e anche forse la percezione che questo non sia un paese che vuole investire in scienza, innovazione e tecnologia. Cioè la burocrazia è un grande freno per la ricerca. La burocrazia serve, ma non deve essere esagerata. La burocrazia serve a organizzare. Serve, no? Quella intelligente, esatto. Insomma, quella in funzione di, non quella che diventa capo. Assolutamente. Ecco, senatrice, si è emozionata quando Napolitano l'ha nominata senatrice a vita? Ho perso la parola, credo. Addirittura, sì, sì, bellissima. E cosa le ha detto Napolitano? Ma mi ha detto, mi ricordo questa frase, no, in cui mi ha parlato per circa mezz'ora della Costituzione, dei padri fondatori, e io non sapevo dove stesse andando, perché io ero piombata lì dal nulla. Mi ero l'aveva stata... chiamata, sì, così? Sì, sì, sì, perché voleva vedermi, e poi mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: io ho intenzione di nominare i nuovi senatori a vita e ho pensato al suo nome, cosa ne pensa? Ecco, è stata così. E cosa ne pensa lei? E io sono svenuta e mi ricordo questa frase, insomma l'ho detta più volte, mi ha preso per il braccio e mi ha detto: professoressa, le faccio portare un cordiale, perché non riuscivo assolutamente a parlare. E poi la mia prima reazione è stata: sarebbe un grande onore, ma io ho il laboratorio, ho le persone, ho una sfida con una malattia. E lui mi ha detto: l'ultima cosa che voglio è togliere una risorsa alla ricerca. Però avete trovato l'accordo. Ecco. Va bene, senta, senatrice Gattano, le faccio un'ultima domanda. Lei crede in Dio? Io credo che ci sarà qualcuno ad aspettarmi alla fine della mia vita e alla quale spero di essere in grado di render conto. Grazie. Grazie. A lei. Mix 24, la storia. I risultati della più recente giornata sono noti. Juventus ed Inter hanno entrambe pareggiato fuori casa e i neroazzurri mantengono 2 punti di vantaggio. Però il presidente e i tifosi della squadra milanese non sono soddisfatti del gioco e soprattutto della bislacca tattica che il signor Herrera avrebbe escogitato a Marassi, affidando stranamente alle mezze ali il compito di difendere e ai terzini quello di tentare il gol. Il protagonista e la vittima al tempo stesso di questo singolare macchiavello dell'allenatore argentino è il giovane Giacinto Facchetti. Si tratta di un tipo straordinario, un candido, alto 1,86 m, da ragazzo riusciva splendidamente in atletica leggera. Per questa sua costituzione non sembrerebbe adatto a fare il terzino d'ala. In realtà quest'anno Herrera ne ha fatto l'autentica rivelazione della stagione. Facchetti, come è andato all'Inter? All'Inter sono arrivato 5 anni fa e provenivo da una squadra di dilettanti, la Trevigliese. A che pensa quando entra in campo? Ma quando entro in campo penso all'avversario che ho di fronte, se è un avversario difficile, e penso di far bella figura se si può, insomma. Le piace più segnare gol o impedire agli altri di segnarli? Segnare. Era Giacinto Facchetti, oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia. Il capitano dei capitani, terzino d'avanguardia, anima della grande Inter. 94 partite in nazionale, di cui 70 da capitano, 4 scudetti, una Coppa Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 728 partite ufficiali, 78 reti di un uomo integro, vicecampione del mondo nel 70 dopo la storica partita del 4-3 contro la Germania. Facchetti muore il 4 settembre 2006 a 64 anni. Oggi, attraverso la voce del figlio, degli amici, dei colleghi, ripercorriamo la vita di quel gigante pieno di virtù, una pedina fondamentale nella storia della grande Inter e del calcio italiano. Quando sei qui con me. Giacinto Facchetti nasce a Treviglio il 18 luglio del 1942. Da ragazzo mostra subito doti da grande campione. Cresce nelle case popolari con 3 sorelle ed un fratello, figlio di un ferroviere. È un giovane come altri, forse, ma di sicuro ha un lato nobile. Ascoltiamolo in un'intervista del 1967. Molti credono che la vita di un divo del calcio sia più rosea che grigia. Vedono gli applausi, gli alti stipendi, i viaggi, gli elogi dei cronisti, l'adorazione degli stadi. Eppure la vita di un calciatore è composta di grandi fatiche, di rinunce quotidiane, di sacrifici. Più che sì, egli deve sapere dire no. La realtà del divo dello stadio è persino arida, solitaria. Ore di concentrazione, ore di rilassamento. Il sonno come una medicina. Il cibo visto solo come un'operazione che consente di ricaricarsi di proteine. La mia infanzia è stata un'infanzia normale, felice, fino a 17 anni, quando è morta mia madre. Però ho un padre, tre sorelle e un fratello che mi hanno aiutato molto e quindi ho potuto passare questi momenti brutti. A 12 anni Giacinto Facchetti comincia a giocare a pallone nell'oratorio di Treviglio. Ai suoi esordi nella Trevigliese gioca come attaccante, ma una volta arrivato nel club nero-azzurro, Elenio Herrera lo trasforma in difensore. È il 1961 quando Facchetti debutta nel club dell'Inter, in una sfida contro la Roma. Ce ne parla Candido Cannavò, editorialista della Gazzetta dello Sport. Del 61, che è una data importante della sua vita, perché lui ha debuttato in una partita da ragazzo, Roma-Inter. E io non so per quale circostanza mi trovavo là. Era un ragazzo snellissimo, altissimo, e giocava contro il grande uruguaiano Ghigia. Il Ghigia era alle ultime tappe della sua carriera e lui era l'astro che stava nascendo, quindi un duello anche tra epoche diverse. Ogni 100.000 ragazzi che prendono a calci un pallone in Italia nasce un Facchetti, ma ogni 1.000 Facchetti che spuntano, uno o due soli riescono a mantenersi nelle condizioni necessarie al professionista del calcio. Quando Elenio Herrera dice di lui: questo ragazzo sarà una colonna fondamentale della mia Inter, sono in pochi a credergli. Ce ne parla Massimo Moratti. Giacinto l'ho conosciuto quando aveva iniziato a giocare nell'Inter. Ed era un ragazzo giovane, io ero un anno, un paio d'anni più giovane di lui. A Herrera piaceva moltissimo questo fatto che lui fosse assolutamente dedito al suo lavoro e che seguisse Herrera con assoluta attenzione. E poi Herrera aveva fatto una scommessa su di lui a cui nessuno credeva nelle prime partite, soprattutto i giornali, che sarebbe stato il giocatore che sarebbe andato per primo in nazionale. L'ha visto subito come un mito. E questo naturalmente i giornali ne presero anche un po' in giro Herrera all'inizio. Invece Facchetti si conquistò questa cosa e divenne il giocatore che aveva giocato di più in nazionale, con maggiori presenze, al di là dei portieri che hanno sempre una lunghezza maggiore. Dal 63 al 66 l'Inter vince due volte lo scudetto, due volte la Coppa dei Campioni e due volte la Coppa Intercontinentale. Sono gli anni della grande Inter. Ce ne parlano i giocatori Giuliano Sarti, Tarcisio Burnik e Sandro Mazzola. Forse eravamo stati scelti come dei samurai. Eravamo stati scelti per vincere. E noi vincevamo e poi ognuno andava per conto suo. La battaglia per noi era una cosa naturale. Era un gruppo di giocatori che accettavano le decisioni dell'allenatore, allo stesso tempo eravamo molto amici. L'Herrera diceva sempre: finita una gara, ricordo la gara di Coppa del Mondo in Argentina, arriva l'una di notte che noi stavamo un po' festeggiando e dice: ragazzi, andiamo a letto che bisogna pensare già da domani mattina al Varese che incontriamo domenica. Prima di Herrera il calcio professionistico era professionistico tra virgolette, perché i calciatori si allenavano poco, ma tutti, non esisteva il riscaldamento pre-partita. E Herrera quando arrivò trovò un mondo e lo cambiò. Facchetti per le sue caratteristiche non fu preso bene all'inizio dalla critica. Nessuno capì che era un terzino atipico per quei tempi, però era già un precursore del terzino che andava all'attacco e faceva i gol. Mix 24, la storia. Che sentimenti prova prima della partita? Prima di entrare in campo si provano tante cose. Prima di tutto è il desiderio di vincere. Poi c'è la rabbia agonistica, quella di sopraffare l'avversario. E infine c'è un po' di paura. Come reagisce quando ha questa paura, questo timore? Quando c'è questo timore viene più voglia di giocare bene, più c'è più concentrazione, quindi penso che le migliori prestazioni si diano quando c'è un po' di questa paura. Bentornati a Mix24, era Giacinto Facchetti, terzino dell'Inter, capitano della nazionale e alla fine presidente del club nerazzurro. Quella che raccontiamo oggi è la sua storia, 59 gol in Serie A, 75 in tutte le partite ufficiali con l'Inter, più 3 in nazionale, è la storia di un fuoriclasse. Ce ne parla Enrico Mentana, tifoso dell'Inter. Io sono cresciuto a Milano e mi sembrava che il mondo fosse popolato di interisti e milanisti. Mio fratello ha un anno meno di me, è milanista. Io scherzo e dico sempre che è milanista perché ha scelto per secondo. Avevo 7-8 anni. La prima volta che vidi Facchetti e vidi quell'Inter era in un campo come questo. L'Inter si allenava all'Arena a Milano. Non c'era ancora il mito di Appiano Gentile. Ed erano tutti lì, tutti grandi campioni, molto più a portata di mano. Io ero un bambino, mio padre che faceva il giornalista sportivo mi portava a vedere anche gli allenamenti. E ho imparato a conoscere la squadra del mio cuore proprio nel momento in cui stava diventando la squadra più forte d'Italia, poi d'Europa, poi del mondo. Facchetti era l'esempio di come dovrebbe essere il mito per un bambino. Potrei dire era, come veniva appellato allora, il grattacielo di Treviglio. Il bel ricordo che mi rimane di Facchetti è sicuramente quello della semifinale con il Liverpool a San Siro, quando si doveva rimontare dall'1-3 della partita d'andata. Nel secondo tempo l'azione bellissima che portò al tiro e al gol Facchetti era degna della grande Inter, era il simbolo della grande Inter e il simbolo di quel grande Facchetti. Tutta Italia, si può dire, esultò con lui, con i ragazzi in quella serata di San Siro. Allora l'Inter era la nostra nazionale di club, lo hanno ammesso in tanti. Atleta di straordinaria disciplina e prestanza fisica, Giacinto rappresenta un esempio per i compagni di squadra, che lo ricordano così. Era uno tranquillo, finito l'allenamento si ritirava in camera, lui non giocava né a biliardo né a carte, lui leggeva, andava, era uno che riposava, era fin troppo un atleta, nel senso che diciamo, dai Giacinto ogni tanto alzati, ma mi devo sciogliere le gambe, era uno proprio patito anche in un certo senso, perché il peso non sgarrava mai di niente, ecco. Aveva una scheda, ecco, quella scheda l'ha usata per tutti gli anni della sua carriera. Soprattutto comunque era uno che credeva molto nel lavoro, si dedicava moltissimo al lavoro sul campo, beveva tutto quello che Herrera insegnava, sia in campo sia fuori, nel tenersi, nel mangiare, nel bere, in tutte le cose era pignolo, era un professionista, già i primi anni era un professionista perfetto. Una di quelle persone che io non ho mai visto e non ho mai sentito una volta parlare male di qualcheduno, ma accidente al mondo, ci sarà pure un qualche cosa che non ti va, ci sarà pure. Allora, in quegli anni si diceva che chi aveva più del 42 di piede non poteva essere un calciatore. Facchetti era il 42,5-43. E arrivò Jair da Costa dal Brasile. Ci cambiavamo io, Jair e Facco, Jair in mezzo. E a un certo punto Jair vede che Facchetti si fascia le dita dei piedi coi cerotti. Una volta, due volte, e allora un giorno mi dice: Sandro, ma perché Facco? Ma sai, perché così può giocare con una scarpa un po' più corta e può calciare meglio, quando calcia di shoot non prende per terra. Ah, io non capisco, Facco vuole mettere Milano dentro Treviglio? E lui gli ha detto: ma vuoi mettere Milano dentro Treviglio? E rimase per anni di questa storia sulla quale sorridevamo tutti. Però questo dice anche la professionalità di una persona, cioè voleva, è minuzioso in tutti i particolari. Io arrivai all'Inter proprio nel 71, mi comprai una macchina che era il mio sogno, era una GT Junior dell'Alfa Romeo, una macchina a due porte. Ero innamorato di quella macchina lì e io la presi. Dopo una settimana che noi andavamo su a Piano Gentile, perché lui faceva fatica a entrare perché era una macchina molto piccola, non si sentiva comodo perché lui dopo ogni allenamento usava sdraiarsi proprio sulla macchina per riposare, è riuscito nel giro di una settimana, 10 giorni, a portarmi da un suo amico e farmi cambiare in macchina. Tutto è pronto per il calcio d'avvio, sono già stati eseguiti gli inni nazionali, vedete Kaiser che chiede ai propri collaboratori se tutto è a posto e quindi dà il calcio d'inizio che è stato battuto dagli azzurri. Scusa, palla cara. Per Di Gennaro. Scusa tesoro, scusa c'è la partita, sto guardando la partita, gioca l'Italia sai, c'è l'Italia. In quei tempi là lui quando giocava nell'Inter e c'era Bramieri che era il grande comico, era un interista incredibile e lui andava piano gentile e raccontava le barzellette. Alla sera noi uscivamo una volta alla settimana con le mogli così e Giacinto raccontava le barzellette ed era anche molto bravo, difatti mia moglie impazziva. Allora a un certo punto lui c'era il libretto, arrivava le ultime, ci raccontava le barzellette, non era solo serio, era serio nel lavoro, nel comportamento, ma poi era alla portata di tutti, ecco. Dopo l'esordio in nazionale nel 1963, Giacinto Facchetti vince gli europei da capitano. È il 1968. Trascinati da un Mazzò che nel ruolo di mezzala rappresenterà una stupefacente rivelazione, gli italiani assumono immediatamente l'iniziativa. È la serata delle rivincite e per quanto riguarda Facchetti e Domenghini delle conferme. I due nerazzurri saranno ancora una volta tra i protagonisti. La partita precipita verso il suo epilogo trionfale. Le ultime battute sono recitate fiaccamente. Arriva il verdetto limpido, l'Italia ha liquidato la Jugoslavia. E si aggiudica il titolo europeo con pieno merito. Verde Prato viene invaso da torme di ragazzi esultanti che agitano il tricolore ed issano in trionfo il gran capitano Facchetti. Sentiamo un po' da Facchetti, per esempio, che è il capitano della nazionale. Dunque, come capitano, allora, che un giudizio su questa nazionale? Il vero gioco dell'Italia è quello visto ieri sera, perché l'Italia può giocare sempre così, solo che gli manca in alcune partite la convinzione di essere la più forte. Capitano, tutti visto i club che vengono e fanno visita alla Domenica Sportiva lasciano il distintivo del club. Sì, e lei come capitano degli Azzurri? Naturalmente anch'io come capitano degli Azzurri ho portato un simbolo così per la simpatia. E che simbolo, della, grazie. Della per la Domenica Sportiva. Questa è la maglia della degli nazionale. Azzurri, grazie, è il più bello. Una volta la fascia di capitano si dava a quelli che avevano un carattere da capitano, devo dire che questa è un'altra differenza, non al giocatore con più anzianità o a quello più famoso come si fa oggi. E Facchetti aveva tutto per fare il capitano. Anche la calma e la pazienza. Era un esempio, un capitano esempio, capitano che aveva la personalità di andare dall'arbitro a dirgli guardi che qui mi sembra in modo gentile, ma insomma parole povere sta sbagliando, ecco. Erano Gianni Mura e Sandro Mazzola. Burnic e Facchetti formano la coppia difensiva più longeva della storia della nazionale del calcio. Dal 1963 al 74 disputano insieme 58 partite, di cui 45 come coppia di terzini. Così Facchetti parla del suo ruolo intervistato nel 1967. Se non fosse un calciatore ma una persona semplice come tante altre, cosa vorrebbe essere? Come calciatore penso di essere utile, in quanto i tifosi si identificano in noi. E quando sono allo stadio si divertono, cioè io li diverto e quindi penso che se non fossi calciatore vorrei ugualmente essere una persona che possa essere utile ancora alla gente, anzi magari anche di più. A soli 25 anni Giacinto sposa Giovanna Garnieri. Nel 1968 nasce la primogenita, Barbara. Seguiranno Vera, Gianfelice e Luca. Lei è fidanzato? Sì, sì, sono fidanzato. La sua fidanzata è di Treviglio? No, è di un paese vicino a Treviglio, Spino d'Adda. Senta Facchetti, in fondo lei è abbastanza giovane per sposarsi, perché volete sposarvi così presto? Non è perché si sente solo? Ma non mi sento solo perché appunto ho la mia famiglia, poi ho la mia fidanzata e quindi la mia moglie, quella sarà la mia moglie che mi aiutano appunto a non sentirmi solo. Vi ricordo papà, una persona dolcissima, affettuosissima, tant'è che quando partiva per i ritiri era sempre una tragedia, proprio piangevo a dirotto, non volevo che se ne andasse. Summer. c'è una sequenza di foto dove c'è lui che sale in macchina e io sono nelle braccia della mamma. Allora comincio ad allungare le braccia per andare verso di lui e lui mi saluta con la mano mentre si sta sedendo per partire. Io allungo ancora di più le braccia e lui che mi guarda e comunque è tentato di prendermi. Poi a un certo punto scoppio a piangere e quindi papà scende dalla macchina, mi prende in braccio. Oh yeah. È sempre stato molto severo lui, per esempio l'idea che si andasse ogni tanto in discoteca non gli piaceva perché comunque bisognava andarci a determinati orari e uscire alle 11:30 per andare in discoteca era un orario dove non era impensabile uscire, per cui ogni volta metteva il muso e bastava uno sguardo e comunque otteneva il rispetto che voleva, insomma, per cui in certe situazioni ci incuteva abbastanza timore. Da un punto di vista anche così, proprio del ruolo di padre che inevitabilmente si presta dei conflitti, no? tra genitori e figli, anche capace di mettere in discussione certe rigidità, avendo ricevuto un'educazione molto, molto rigida e molto autoritaria, penso che col tempo sia stato anche in grado di metterla in discussione in alcuni momenti, e di questo penso che ne abbiamo così avuto beneficio entrambi, soprattutto la nostra relazione ne abbia acquistato in libertà. Erano i figli di Giacinto Facchetti, Barbara e Gianfelice, su Mix 24. Torniamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un uomo che, oltre a essere un fuoriclasse del calcio, è stato un grande dirigente, ma soprattutto un esempio di virtù nella storia dello sport. Giacinto Facchetti. Facchetti disputa tutta la sua carriera calcistica nell'Inter dal 61 al 78 e a parlarcene è l'attaccante Roberto Boninsegna. Devo dire che il più bel gol della mia carriera l'ho fatto su un cross suo, il gol col Foggia, splendido, lancio di corso, lui è andato via sulla fascia sinistra, me ne ha fatti fare tanti di gol. Uno splendido cross che io ho fatto un bel gesto tecnico, in quell'occasione forse il gol più spettacolare della mia carriera. Era uno che andava via sul fondo e per noi attaccanti, centravanti d'area, avere uno che andava sulla fascia e ti metteva queste palle, era una manna che veniva giù dal cielo. Lui era uno che piuttosto di fare un'entrata, cioè te la portava via la palla, un difensore che giocava in punta di piedi. Sui campi lei è sempre stato estremamente corretto, è stato, mi sembra, espulso una sola volta in tutta la sua carriera. Sì, una volta solo perché ho applaudito l'arbitro. Altrimenti è sempre stato correttissimo, non ha mai, o almeno quello che si vedeva per televisione, è sempre stato, sì, estremamente corretto. Ma io penso che il calcio è ancora uno spettacolo e quindi bisogna evitare nel possibile di fare degli interventi pericolosi per l'avversario. Il 7 maggio del 1978 Giacinto Facchetti disputa la sua ultima partita contro il Foggia e dopo la carriera sul campo decide di abbracciare quella da dirigente sportivo, prima come rappresentante all'estero per l'Inter, vicepresidente dell'Atalanta, direttore generale, vicepresidente e infine presidente della sua Inter. Avrebbe potuto fare allenatore, lanciarsi in avventura per guadagnare anche tanti soldi, perché insomma... Però lui scelse il discorso dell'Inter. L'Inter è un discorso affascinante perché sei sempre a casa tua, ma limitativo per certi versi. Però lui stava bene così, insomma, stava bene a casa sua. Casa sua era l'Inter e lo è rimasta fino all'ultimo giorno. Quando è diventato presidente, lui voleva diventare un uomo di sport come lo era Boniperti. Devo fare tutto quanto è necessario per poter essere in condizione di vincere, cioè non essere solamente, non pensare solo a domenica oggi voglio vincere. Bisogna passare tutta la settimana con questa voglia e fare tutto quanto è necessario dal lunedì al sabato per prepararsi a vincere. Chi fa una disciplina sportiva deve avere molta forza di carattere, perché non è sufficiente avere delle qualità tecniche, delle qualità atletiche. Quelle ti permettono di arrivare al top per essere un grande giocatore, no? Però quello che ti fa ottenere i risultati è il carattere. Era Giacinto Facchetti intervistato per Interchannel nel 2004. Professionista esemplare, stimato da tutti i calciatori dell'Inter. Giacinto era un professionista esemplare e credo veramente, cioè i giocatori dovrebbero essere tutti come lui. Come lui e come altri di quell'epoca lì, perché allora i giocatori erano veramente professionalmente impeccabili. Facevano una vita da atleti, si allenavano sempre seriamente. Oggi è un po' cambiato, non è proprio così come allora. Però se noi riuscissimo a seguire quello che lui ci ha lasciato, quello che lui è stato come, prima come giocatore e poi come presidente, credo che sarebbe un bel passo avanti. Bastava anche solo uno sguardo per capire che, non lo so, che magari eri in debito con lui, perché ha dato tanta fiducia in te, nella squadra, e magari qualche volta avevi sbagliato e perciò ti sentivi a disagio quando lo guardavi e magari non ti diceva niente, perché forse era un modo di fare suo, di far capire agli altri che c'era bisogno di reagire e di andare avanti. La sua presenza si faceva sempre notare, un uomo molto, molto presente e molto importante per questo ambiente. Con noi giocatore, quando ha accettato di fare presidente dell'Inter, è stato proprio dentro il problema, ha messo sempre la faccia, era sempre una persona presente in qualsiasi situazione, che va dal magazziniere al giocatore più idolatrato di quel momento. Le mamme nostre erano impazzite per lui, perché era veramente l'uomo e il calciatore adorato da tutte le ragazzine, che all'epoca erano ragazzine e sono diventate mamme, quindi hanno tenuto questa fede. Perché io credo che lui abbia, a parte la bellezza che è relativa, abbia quel modo quasi timido che rispecchia la sua personalità. E quindi credo sia stato un pochino il marito ideale per tantissime ragazze del tempo. È stata una persona veramente che mi ha dato delle parole che magari mio padre non mi aveva dato, no? E quindi è stata sicuramente una persona per me molto importante. Sì, sono arrabbiato un paio di volte con lui, perché tutti i giorni mi pesava, mi faceva pesare. Eri sempre dietro a me, però lo sapevo che lui mi voleva bene, no? E quindi era una cosa molto importante per me. Lui è uno che mai sentivi dire no, perché io facevo così e si deve fare così, e perché io sono stato un campione, per diventarlo devi fare questo, no? E mai lui ti faceva sentire tutto quello che era o che era stato come calciatore, neanche ti faceva sentire che era il presidente che stava sopra di te. Rispetto invece al suo essere personaggio, comunque persona famosa, questa cosa noi non l'abbiamo mai sentita in casa, perché comunque lui ha sempre tenuto abbastanza la lontana tutto quello che riguardava le sue imprese, i suoi successi. Raramente aveva voglia di andare a raccontare certi episodi che appartenevano al passato, perché era come la sensazione che avevo io, che avevamo noi, era come se non volesse sottolineare quello che aveva fatto, no? E quindi renderlo invece più normale, cioè era stata la sua vita, punto, stop. Per non farlo pesare su di voi. Esatto. La palla carezza i fili d'erba. Padre affettuoso e riservato, fuori classe, umile e severo. Giacinto sembra troppo onesto per un mondo di lupi come quello del calcio. Se ne parlano il presidente dell'Atalanta, Ivan Ruggeri, e Massimo Moratti. Penso che in questo mondo stonasse anche un po', perché è un mondo un po' di lupi, e lui era sicuramente un personaggio personaggio troppo pulito per vivere in questo mondo. Sospettava molto che ci fosse qualcosa, come del resto tantissimi di noi, ci fosse qualcosa che condizionava un po' le regole del calcio. Scoprire che gli arbitri veramente potevano essere corrotti, questa è una cosa che per un atleta serio, per bene, vero, cioè che mette tutto su quel piano, l'idea che si possa dire va benissimo, ma l'idea che poi sia vero è una cosa che ti uccide. E lì l'ho visto stravolto, non giudice, non scandalizzato da un punto di vista formale, proprio ferito. Le solite partite che andavano male, e che dicevo: senti, va bene tutto, dico, ma ci capiterà una volta di al giorno prima di dire: ma domani con quell'arbitro lì siamo più tranquilli, ma speriamo, sì, domani dovremmo andare. Dico, ma una volta, dormire la sera prima con l'idea che forse ci abbiamo una buona percentuale, dico, no, beh, una cosa così non me la devi chiedere adesso. Ecco, questa me lo disse in termini proprio fra scherzare un pochino, perché la mia domanda era comunque scherzosa, però c'era molta serietà, cioè c'era tutto lui in tutti i casi aveva il rispetto profondo, ma lui li difendeva sempre, quando perdevamo andava male, cioè. Poi veniva e diceva: no, ma guarda che l'arbitro non ha sbagliato, quella cosa doveva fare, il nostro si è comportato male. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Colpito da un tumore, Giacinto Facchetti muore il 4 settembre del 2006. La commozione di tutto il mondo dello sport, ma anche della gente comune, è fortissima. Ho saputo per strada, sentivo due che parlavano, due miei amici, ho detto: cos'è che hai detto? Come, non lo sai? Ho detto: no. Io l'avevo visto alla finale di Coppa Italia con la Roma, quando l'Inter ha vinto. Andammo a festeggiare tutti assieme con la squadra, col presidente, e poi andammo a casa sua un mese e mezzo prima, ci invitò a casa sua a fare una cena, io, Burnic, Guarneri, Adelio Moro, io portai un po' di prodotti mantovani, il salame, il lambrusco, però lui era tranquillo, sereno, stava bene, anche perché aveva avuto delle notizie confortanti, che si era ridotto il male. E poi invece improvvisamente sono andato a trovarlo a Milano, non me l'hanno fatto vedere perché è venuto fuori la Giovanna, sua moglie, mi ha detto: Roberto sta male, e ricordatelo come l'hai visto a casa il mese scorso. Due giorni prima, che è già un momento terribile suo, sono rimasto da solo con lui per 20 minuti. E t'aspetti che il malato, succede che il malato ti chieda: ma come mi vedi, come sto, ma cosa può succedere, questo è normale, eh? E invece quasi voleva rispettare il mio sentimento, e quindi ha tenuto tutto sempre su un piano, con degli occhi dolcissimi, curiosi, di domande, di cose di altro tipo, proprio come se fosse interessato a un discorso di altro tipo, è come se lui non avesse questo tipo di rischio, di paura, di cose. Abbiamo vissuto gli ultimi giorni in una situazione quasi surreale, col fatto che aveva dei valori talmente sballati che erano poi incompatibili con il suo stato fisico, perché era in uno stato comunque, non dico perfetto, ma di integrità fisica e mentale, che era così disarmante per i medici stessi. E quindi nessuno di noi, fino a pochi giorni dal 4 settembre, effettivamente pensava che stesse accadendo davvero quella cosa. I numeri dicevano che eravamo in una situazione critica, ma la vita ti diceva qualcos'altro. E quindi si è congedato nel suo stile, nel suo modo. Uno dei messaggi più belli che ho letto in quei giorni, di una persona che non anonima, però scritti sui registri, di qualcuno che gli ha scritto: Giacinto, smettila di scherzare, ci vediamo domenica a San Siro. sembra che quella è la sensazione che ci ha lasciato. Il 6 settembre 2006, a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, una folla di amici, tifosi, gente comune, accorre per dare l'ultimo saluto al gigante, a un grande campione del calcio italiano. Il funerale di Facchetti è la dimostrazione che comportarsi bene nella vita è qualcosa che paga. Quel tipo di affetto, così carico di tensione, io l'ho visto raramente a un funerale. È per un grande campione che mancherà a tutti sicuramente. Una persona come lui, non c'è più. Grande giocatore, insostituibile. I valori che lui ci ha dato, noi dobbiamo trasmetterli ai nostri figli, perché sono valori non solo di sport, ma sono valori anche di vita civile. Per me è il capitano, rappresenta la figura del capitano. Non ce ne sono più come lui, l'unica vera grande bandiera. C'erano tanti vecchi, c'erano tanti bambini tenuti per mano dai nonni che probabilmente raccontavano che era morto un grande personaggio, un guerriero leggendario di un calcio che non c'è più. Penso di arrivare fino a 33-34 anni e quando avrò smesso di giocare a calcio innanzitutto vorrò deconcentrarmi un po', poi vorrò approfondire tutte le conoscenze che fino adesso non ho approfondito, infine visitare meglio quei paesi che adesso ho visitato ma non ho potuto vedere bene e infine penso... Anzi, vorrò essere meno calciatore e più uomo. Fabio Caressa, telecronista sportivo, co-direttore di Sky Sport. Facchetti è considerato il capitano per eccellenza, è giusto? È sicuramente giusto, perché è giusto che vengano ricordati come capitani, soprattutto quelli che incarnano uno spirito positivo. Perché poi il capitano, proprio perché porta la fascia, è anche un simbolo. E sicuramente Facchetti, dei valori etici, valori morali, è stato un grande simbolo. Ecco, Facchetti, Boniperti, Del Piero sono stati veri uomini di bandiera. Sono gli ultimi? Ma certo, il calcio adesso è cambiato e i giocatori cambiano molte più squadre, però ce ne sono stati tanti altri, poi Del Piero, Totti, Zanetti. Credo che ogni epoca poi alla fine abbia le sue bandiere. Ecco, com'è cambiato il calcio di Facchetti rispetto a quello di oggi? Discorso lungo forse? Sì, un discorso lungo, un calcio molto diverso. Diciamo che lui ha contribuito a cambiarlo il calcio. Ci sono dei calciatori che per le loro caratteristiche portano avanti il gioco, gli fanno fare un salto in avanti, un salto verso il futuro. Facchetti, per la sua struttura fisica, per la maniera di interpretare il ruolo, ha sicuramente fatto fare un salto in avanti ideologico, direi quasi. Ideologico perché? Perché era un difensore che però andava anche in attacco, è un difensore che segnava e quindi ha portato una ventata di modernità che poi ha segnato l'epoca successiva. La globalizzazione del calcio è un processo che marginalizza in modo definitivo le nazionali? No, io credo che ci sia una via di uscita. Io credo che da una parte sia impossibile fermare la globalizzazione semplicemente perché adesso è possibile vedere i campionati di tutto il mondo e quindi vedendoli poi apprezzi i giocatori di altri campionati li vorresti vedere magari nel tuo o nella tua squadra. Un discorso diverso però è fare come hanno fatto alcune nazioni, come per esempio la Germania, come noi abbiamo ricordato nella nostra inchiesta Codice Rosso lo Stato del Calcio. La Germania ha potenziato la nazionale perché ha avuto giocatori stranieri con limitazioni, non tanti come in Italia, ma poi ha imposto alle squadre di formare delle academy dove far crescere i giovani del paese. Delle proprie scuole di radici? Sono delle vere e proprie scuole che non si può pensare debbano essere naturalmente autarchiche, cioè solamente con nostri giocatori. Anche in queste scuole possono esserci dei giocatori o che provengono dall'estero o meglio ancora figli di immigrati di prima generazione, ma la cosa importante è che comunque siano delle scuole che mantengano il contatto con la realtà culturale del paese. Perché secondo lei, se è vero, non si allevano più giovani talenti? Prima di tutto perché non si investe in più nei vivai. Proprio per questo andrebbe stimolato come in Germania. Anche in Germania si faceva così. Poi è arrivata una nuova regola per cui se non, le squadre che non erano in grado di formare delle forti academy non avrebbero potuto più iscriversi al campionato e quindi si sono dovute dotare di strumenti e di impianti. E poi non dimentichiamo che in Italia mancano gli impianti, cioè spesso i ragazzi si devono allenare in strutture fatiscenti o a metà campo, dividendo il campo a metà e facendo allenare lì due squadre, e non c'è più l'oratorio dove si andava a giocare prima, e quindi in questa mancanza di strutture si inserisce la principale, credo, difficoltà a creare poi dei forti giocatori all'interno delle squadre e delle nazioni stesse. Insomma, la Germania è un modello anche per il calcio? La Germania è il modello per il calcio, da questo punto di vista non c'è dubbio, e credo che la serietà con cui hanno affrontato il problema del calcio al momento della loro crisi intorno all'inizio di questo millennio sia anche figlia della serietà con cui affrontano altre crisi, forse meglio di altri paesi, anche se con una certa durezza e intransigenza che poi è tipica, se vogliamo, della cultura tedesca. Grazie. Grazie a voi.